Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, sono i giorni della Coppa Italia, come ben sapete, che per me, l'ho già detto molte volte, rappresentano il senso della stagione italiana. Flavio Soardi, buongiorno. Buongiorno Carlo, hai perfettamente ragione, visto come sta andando il campionato, e quindi insomma grande interesse attorno a questa manifestazione che ha già emesso i suoi primi verdetti. Costian Peterson, buongiorno. Ciao ragazzi, ciao Carlo, ciao Flavio, eri latitante la settimana scorsa. La settimana scorsa era a Cuba, appiedato da un male di stagione. A Cuba. Volevamo solamente sapere, okay? Buongiorno a tutti. Ciao coach, abbiamo qui per parlare dei giorni più interessanti, dicevo, della stagione sul fronte interno, uno scrittore di pallacanestro che è tornato a trovarci, come Werther Pedrazzi. Ciao Werther. Buongiorno a tutti voi, coach, buongiorno. Ciao mitico Walter, eccoci no, qua. Di mitico c'è solo number one. Coach, Milano, posso usare la parola fallimento? Qualcuno si arrabbia, posso? Vuoi aspettare la fine dell'anno prima di dire una cosa del genere? E ovviamente sono molto delusi oggi perché sono usciti dalla Eurolega, dopo il primo girone, diciamo regular season, è uscita la Coppa Italia il primo turno. Però hanno detto anche, e voglio anche avere grande pazienza con queste cose qui, che volevano concentrarsi sul campionato italiano. Sono sempre, se non sbaglio, al terzo posto e avranno la loro possibilità di fare qualcosa in playoff. È chiaro che una squadra che non ha avuto fortuna in queste prime due manifestazioni, queste prime due dei tre obiettivi della stagione, però non voglio dire fallimento, voglio dare a loro la possibilità di fare un recupero nel campionato, però ovviamente non diciamo fallimento, una delusione, e certamente in casa loro saranno loro i primi a dirlo. Sì, anche perché io, se sono Milano, punto tutto sulla Coppa Italia, perché onestamente, non raccontiamoci favole, l'unico vero obiettivo stagionale raggiungibile in una formula come questa, campionato, se punta sul campionato, perdi con Caserta una partita determinante che poteva darti il secondo posto, insomma, a me i conti continuano a non tornare. Non so, agli ascoltatori, 80024 0024 numero verde, non so, Werther Pedrazzi. No, sicuramente il rapporto qualità-prezzo è negativo per l'Armani. Indubbiamente la sconfitta casalinga con Caserta è stato un segnale estremamente negativo anche per il secondo posto in campionato, che è il massimo consentito, e intanto è estremamente riduttivo e anche un po' amaro e demoralizzante. Qua si corre per il secondo posto, si corre per non vincere lo scudetto, però eventualmente per una qualificazione in Eurolega. E la Coppa Italia, non vorrei, coach, non vorrei che fosse, apprezzo molto la pazienza, perché i conti si tirano sempre alla fine, ma non vorrei che fosse la più antica delle favole, l'uva non è matura, cioè qua non ci sono delle volpi, c'erano dei pollastri che si sono fatti spennare molto molto male. Una squadra che punta sulla difesa come Milano e che mette nel proprio organico un attaccante puro, perché ormai è solo un attaccante, non è più in grado di difendere come Sani Becirovic, e di punti ne fa 55, e qualcosa nell'assetto c'è che non funziona. Io vado contro corrente quando dico questo, perché tutti vogliono dire si vincono le partite con l'attacco, i titoli con la difesa, perché suona bene, la gente dice oh che bella frase, ma la verità è che si vince con l'attacco deve fare punti, tu non puoi fare 55 punti e pensare di vincere, quindi deve proprio giocare per segnare, perché se tu segni, tu fai bene in attacco, ti prendi fiducia, hai energia, mentalità anche per la difesa, e questo è il guaio di Milano, a fare 55 e poi magari hanno tenuto gli altri 59, buona difesa 59 punti, ma non so, se non fai 60 ragazzi non si riesce a vincere. Tornando al risultato nei confronti di investimento che hanno fatto, ovviamente 5 degli stranieri, loro certamente con i 2 lituani e i 3 americani sono molto delusi certamente per quello che è successo. Sono gli italiani a portare la squadra proprio sulle spalle, adesso se contiamo anche Vigiano e Mason Rock, che hanno cognomi italiani, cioè insieme a Buleri, Mancinelli e Mordente, sono e finché loro tengono, io ho visto loro contro il Real Madrid, finché questi 5 giocatori tengono, loro erano 39-35. Purtroppo nel basket oggi non si può giocare con 5 giocatori, bisogna avere 10 e gli altri 5 non danno assolutamente l'appoggio che Milano aspetta da loro. Io non dico che Petravic o Maciulis deve fare chissà che cosa 25-20, non dico questo, che Petravic mi deve fare 12, Maciulis mi deve fare 12, poi dopo andiamo a leggere, Hall mi fa 10, però Hall ormai fa virgola, ok? Non so cosa dire, e questo qui è la parte di fallimento, se vogliamo dire, sono questi qui, ma io non voglio tirare fuori dentro la parola fallimento gente che veramente sputa sangue come Mason Rocca, come Vigiano, come Mordente, come Buleri e come Mancinelli. Gli altri per me, io chiudo un occhio ogni volta che vedo loro giocare, perché mi fa veramente impressione, però gli altri ragazzi sputano, e mentre ci sono loro, se qualcuno viene fuori a dare loro una mano, possono disputare un degno campionato. Finora due obiettivi falliti, questo sicuro. Coach, ma chiudi l'occhio o tutti e due per non vedere l'obbrobrio o per avere un occhio, l'altro occhio di riguardo? La domanda era, l'unico alibi forse che si può... Tutti e due per non vedere. L'avevamo... Qualche volta non riesco a guardare. L'avevamo intuito. Ma sei d'accordo se possiamo concedere, non dico un alibi, ma una sorta di attenuante generica, dai. Un'attenuante generica. Grazie Carlo, con l'assenza di Petravicius, che è l'unica torre, l'unico presidio centrale e che quindi costringe Milano a giocare un po' sempre in campo, in territorio aperto, e quindi anche a prestare il fianco alle imboscate. Io ho visto diverse partite di Petravic, so che io ti faccio la telecronaca qui della partita di Petravic, che i primi 5 minuti, palla Petravic, bel movimento, svitamento, linea di fondo rovesciata, stupendo canestro, seconda azione, bella finta, scivolamento, linea di fondo, secondo canestro, gli altri 38 minuti niente. Ma io ti volevo portare qui perché io non sono un valente telecronista come te, mi limito ad osservare. Altri inizi di partita sono palla Mancinelli in post basso, canestro, palla Mancinelli in post basso, Ari canestro, terza palla Mancinelli, canestro, non c'è più una palla Mancinelli. Perché Milano non trova una continuità, una scelta giocare sui suoi punti forti? Allora, è chiaro che Milano, nonostante quello che magari dicono, perché vogliono anche, capisco perfettamente, difendere un loro giocatore come Finley, ok, non è quello che va in campo con l'idea che io devo far giocare per Travis, tanto perché lui dice: io sono un giocatore di impatto, deve fare 20 punti, questo è il mio contributo alla squadra, poi se riesco anche a fare gli altri, ok, però il playmaker è quello che va dentro con l'obiettivo di coinvolgere altri 4 giocatori, ma anche se stesso. E quindi Milano non ha avuto un indirizzo tecnico in campo, perché non ha, c'è proprio il pilota in campo per farlo, e questo è un peccato per loro, perché probabilmente Petravic, non so se mettiamo Petravic con Mike D'Antoni al vertice della sua carriera, come va Petravic secondo voi? Tanto per dire, benissimo. È troppo facile, ok? Quindi sto sparando sulla croce rossa, però questa è la verità. Grazie coach, sentiamo venerdì, un abbraccio, alla prossima, ciao. Palla spicchi. Riprenderei dalla voce degli ascoltatori. Umberto, provincia di Venezia, si è aggiunto anche Carlo da Potenza, 800240024 con noi qui in studio, Werther Pedrazzi. Umberto, buonasera. Sì, buonasera a voi. Volevo approfittare anche dell'ospite, sì, che capita a fagiolo, per parlare appunto di giovani e di quanto giocano, di come vengono inseriti nelle squadre, eccetera. Perché a me sembra che onestamente vengono fatti giocare veramente poco, anche in prospettiva, diciamo, chiaramente nazionale, futuro. Ecco, volevo un vostro parere su questa cosa qui, ecco. Sì, glielo diamo. Annosa questione, direi, quella dei giovani, insomma. Abbastanza anche dibattuta su queste frequenze. Non è che giocano poco perché non sono bravi? No, non è vero. Dici? Non è vero, perché c'è una cosa che non si compra al mercato e che non te la puoi mettere in tasca e portare a casa, ed è l'esperienza. L'esperienza è quella che sublima il talento, i talenti ci sono, e purtroppo c'è una serie di situazioni contingenti che abbiamo detto e ripetuto, per cui oggi non è più conveniente investire e spendere dei soldi su allenatori delle giovanili, su settori giovanili, ma è più conveniente l'usa e getta. Io direi che anche nel basket c'è un riflesso dei tempi. Purtroppo l'esempio contrario che testimonia quello che un po' in tanti ci stiamo dicendo è fuori d'Italia, ed è il Partizan di Belgrado, che ogni anno sforna continuamente dei talenti di livello assoluto. Sì. Ora, forse ci sarà anche un aspetto genetico attitudinale, però io credo che sia soprattutto il fatto che lì i ragazzi a 18 anni vanno in campo e giocano. Questione di sistema, però, anche Werther, di sistema Partizan Belgrado, come dice mio amico Sasha Giorgevic, di programma di educazione sportiva, con un'espressione un po' sovietica. Però è un altro, facile dire, un altro mondo. A me vengono sempre in mente le parole di Meneghin: beh, quando ero ragazzino la palla dalle mani degli americani gliela andavo a strappare. Qui invece non vedo, non puoi pretendere di giocare nel professionismo per diritto divino o per il luogo di nascita che sta scritto sulla tua carta d'identità. No, ma vedi, intanto Meneghin aveva uno o massimo due americani a cui strappare la palla. Qua tra americani comunitari e extracomunitari sono più le mani sicuramente che i palloni. Ma io ti faccio l'esempio di Maggioli, poi anche per introdurre l'argomento della seconda, sì, del secondo quarto di finale. A me è sembrato un giocatore di grande lucidità e di grande competenza, sempre nello spazio giusto, al momento giusto, un giocatore dunque un giocatore di squadra. E come il movimento italiano può permettersi di lasciarlo fino a 30 anni e oltre nella seconda lega? Anche perché era lui che ci voleva stare, e lui ci voleva stare perché lì giocava. Flavio, hai chiuso il cerchio. Perché lì a Iesi aveva trovato... Guarda che è anche il coraggio che determina le condizioni umane, e se nello sport che ha per sua nel DNA la sfida questo coraggio non c'è, voglio dire, ma il Mancinelli di quest'anno a Milano, sempre per trovare l'argomento, non merita di giocare 40 minuti nel basket. Quando si dice 40 minuti si intende ovviamente che poi alla fine sono 30-32, sì, capito? Ma non può essere messo è un patrimonio, non può essere messo in una rotazione puramente teorica. Cioè, quelle sono gabbie, e le gabbie bloccano la fantasia, il talento e la passione. Ma senti, invece, visto che l'abbiamo introdotto, Bologna, che impressione ti fa? A me sembra che sia arrivata molto bene a queste finali di Coppa Italia, e che Caserta, come diceva Carlo prima, forse ha sofferto un po' questa impresa nella partita con Milano. Ieri li ho visti abbastanza scarichi dal punto di vista fisico. Ma intanto mi permetto, proprio per sincerità, di mettere un giudizio abbastanza critico su Caserta, perché Caserta con Claudio Coldebella e Pino Sacripanti, due persone che stimo nella maniera più assoluta e totale, posso permettermi di dire che non è vero niente. Cioè, Caserta non è arrivata a scarica, la prestazione di Caserta è stata indotta da una, tu cosa hai detto, convincente, la prestazione della Virtus, autoritaria, ma assolutamente autoritaria, una prestazione. La Virtus è arrivata nel posto giusto al momento giusto. La Virtus ha stentato per tutta la stagione, ha aspettato il giocatore che ha scelto come proprio regista, come direttore d'orchestra, che è stato fuori praticamente per infortunio serio tutto il girone d'andata, e adesso la Virtus ha trovato degli equilibri. È stata davvero una prova, è stata una cavalcata delle Valchirie, il coro dei Lombardi alla prima crociata, una distribuzione a ogni momento, sì, sì, la palla, sì, al giocatore giusto per risolvere la situazione, equilibrio tra i reparti, cosa che manca, perché tanto colgo l'occasione, quando aboliamo il tiro da tre punti, ma quando lo aboliamo, ma per favore, cioè ha ammazzato la pallacanestro italiana letteralmente, o lo mettiamo a 9 metri, sì, oppure basta con questa storia, basta. E qui invece la Virtus ha giocato a pallacanestro con intensità, serenità e soprattutto con una grande lettura. Sì, sì. 5 giocatori tra i 13 e gli 11 punti, mi ricordo un po' Milano. E poi altri due con 8, 9, sì, sì, sì, 7, Collins, ma 5 assist. Come Milano senza leader offensivo, quindi squadra di fanti, se me lo consenti, ma infatti, con maggiore qualità e con maggiore logica rispetto a Milano al momento, secondo me. Continuiamo a parlare con gli ascoltatori. Carlo Potenza, poi Sergio da Roma, 800 24 00 24. Carlo, buonasera, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Faccio una premessa: io purtroppo non mi diverto più a guardare basket per il semplice motivo perché purtroppo so in partenza già come vanno a finire i campionati, perché Siena ormai da qualche anno... Questo è un problema. Io per la verità ne parlavo prima con Werther Pedrazzi, ad esempio a guardare l'Eurolega mi diverto come un pazzo, mai come sì, quest'anno. Parlo del campionato italiano, certo. Dove purtroppo Siena la sta facendo da padrone. E il mio dubbio che mi sto portando avanti da qualche anno è questo, e spero che i grandi ospiti che ci sono oggi possano più che altro togliermi questo dubbio. Qualche anno fa, una decina d'anni fa, c'erano le due squadre di Bologna, Milano che ancora qualcosina di buono la combinava e Treviso. Il campionato era più livellato, anche se poi comunque vincevano le due bolognesi, però comunque si giocava. Oggi invece c'è solo Siena. Domanda: troppo forte Siena o sono scarse le altre, oppure all'epoca c'erano queste le 3-4 squadre che ho detto prima con una sufficienza di base che ruotava intorno. Fermo stato che in quelle squadre lì, tornando al discorso, ricollegandomi al discorso che stavate facendo poc'anzi, c'era anche qualche italiano che giocava, cosa che invece oggi per vederlo a Siena devo vedere come settimo o ottavo Carraretto. Con tutto il rispetto per Carraretto. Lo so, ma gli anni sono passati, indietro è difficile tornare, credo è un domandone questo, perché Siena, come il Partizan Belgrado, è un altro sistema rispetto a tutti gli altri, che però non riescono, mi pare, di imparare nulla. Sentiamo anche Sergio da Roma, poi rispondiamo ad entrambi prima della borsa. Sergio, buongiorno. Dica. Io stimo e apprezzo molto il vostro modo di condurre, di parlare di basket, però la mia domanda, se lecita, un po' di obiettività, perché ascoltando l'inizio ho scoperto finora che l'Avellino è un fantasma formaggino, non è comparso in alcuna considerazione. Siccome sono un appassionato, vivo a Roma, ma sono napoletano, quindi deluso da quello che è successo a Napoli, ma ho seguito la vicenda della squadra negli ultimi anni con dei bei successi, Avellino e Caserta secondo me stanno facendo una stagione veramente notevole, rischiano di arrivare nelle prime quattro. Avellino va in semifinale di Coppa Italia, Caserta ha vinto a Milano ed ha ipotecato in qualche modo il secondo posto. In certi momenti la trasmissione mi sembra un po', come dire, nord-centrica, come se andasse ad analizzare soprattutto quanto Milano possa essere stato o rimanere l'anti-Siena, e forse queste squadre qui, che comunque stanno facendo una buona politica, società che hanno anche dei trascorsi, specialmente Caserta, non sono tanto considerate. Non so se mi sbaglio, ma appunto siete passati a analizzare la seconda semifinale, ma di Avellino io che ieri per un... ma l'aspettavamo, Sergio. Per un problema mio non ho visto la partita, se ascolto voi non so nemmeno se Avellino è sceso in campo. No, ma l'aspettavamo, Sergio, per parlare di Avellino. No, ma lei ha chiaramente ragione, però insomma la notizia mi sembra Milano che perde questa partita, con tutto il rispetto per Avellino e per la stagione che sta facendo. Avellino più Caserta ancora di Avellino, se guarda questa stagione e non guardo poi tanto a ciò che è successo ieri sera. È chiaro che Avellino ha fatto un'impresa davanti alla sua gente, tutto quanto, però secondo me è la sconfitta di Milano, mi perdoni, più che la vittoria di Avellino la vera notizia. Non so cosa ne pensa Werther Pedrazzi. No, intanto buon pomeriggio Sergio, tanto di cappello anche per la rima, che Avellino è il fantasma del formaggino, cioè davvero lei ha perfettamente ragione, è un po' il nostro vizio tra virgolette o deformazione professionale, ma io credo rivolta a fin di bene, perché il problema è sempre quello più antico della parabola dei talenti. Noi parliamo e ci stupisce dell'eliminazione e della stagione sin qui fallimentare di Milano, perché in relazione è stato, credo di ricordare anche il mio esordio, in relazione agli investimenti sta veramente raccogliendo molto poco. È ovvio che l'altra faccia della medaglia sono proprio Avellino e Caserta, indipendentemente proprio dai risultati di ieri, l'una perdente e l'altra vincente, ma anche Caserta io credo che abbia espresso fin qui una pallacanestro vera e affascinante, vista non più di, anzi meno di una settimana fa al Palalido di Milano. È stata una squadra davvero entusiasmante per chiunque ami la pallacanestro, e per Avellino io avrei un pallino, sempre per mantenere la rima. Non è un caso che alla guida tecnica ci sia un allenatore come Cesare Pancotto? E ritorno al, diciamo, al contesto della sua domanda, che forse è sempre stato un po' snobbato e sottovalutato, ma di un rigore, di una serietà e di 26 campionati o 27, forse questo è il 27esimo, non ricordo bene, sempre di altissimo livello. Sono indubbiamente due squadre e due realtà molto, molto consolidate, ma purtroppo perché non vengono così apprezzate? Perché è tutto il sistema che è sbagliato, e mi riferisco all'altra domanda: perché siamo tutti a cercare un anti-Siena e siamo tutti soprattutto a cercare di capire perché molte realtà sprecano le loro potenzialità. Palla spicchi. Dunque, eravamo rimasti con un sasso che doveva lanciare Werther Pedrazzi, e poi altri ne lanceranno: Giampaolo da Firenze, Francesco da Siena, Claudio provincia d'Avellino, un sacco di ascoltatori oggi, poi dopo il traffico arriverà anche Flavio Tranquillo, insomma tombola, ci vorrebbero un paio d'ore di programma. 800 24 00 24, numero Werder, lancia. No, il sasso non è nello stadio, è contro di te, caro Carlo. Bravo, quando finalmente hai detto che Siena è un altro sistema. No, Siena non è un altro sistema, Siena è il sistema giusto, sono le altre che sbagliano. Il problema, cioè, non vorrei essere pedante sulle parole, Siena è il sistema giusto, ha programmato, ha corretto degli errori in corsa, ha una certa disponibilità alle spalle, ma non è che gli altri, che tutte le altre squadre questa disponibilità non l'hanno. E poi è interessante invece, per contro e come controcampo, il discorso che facevi durante questa pausa pubblicitaria, e c'è per esempio una società che è la Virtus Bologna, che investe molto, forse insieme a Siena appunto. Stavolta il sasso me lo prendo io. E te questa volta il sasso te lo prendi tu, che investe moltissimo, ma soprattutto che ha il miglior allenatore o istruttore di giovanili in assoluto, che è Giordano Consolini, che ha avuto più di una volta possibilità di allenare, di fare il capo allenatore in Serie A, ma ha rinunciato perché quella è la sua vocazione, quella è la sua competenza. E pur tuttavia i suoi giovani, anche la Virtus, va a prendere sul mercato Patrizio Prato, come dicevi tu prima, con il massimo rispetto, perché anche ieri sera ha dimostrato il suo valore, e non li fa giocare se non contro la cosa napoletana, nella trasferta napoletana. Ecco, ci sono tanti, tanti interrogativi inquietanti, che forse si risolvono con un po' più di coraggio. Proviamo a sentire gli interrogativi degli ascoltatori. Giampaolo da Firenze. Salve, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono un tifoso virtussino da tantissimi anni, e quindi vengo dalla storia di Bologna, che ha vinto tutto negli anni 90, e quindi insomma eravamo anche nettamente superiori alla Siena di oggi, perché noi vincevamo anche in Europa, probabilmente perché c'erano programmazioni diverse, quindi mi permetto questo piccolo inciso, ma ovviamente non volevo parlare di questo. No, ma ci sta. Io sono contrario ai paragoni epocali. Quella cui lei fa riferimento è una squadra che ha fatto epoca nella storia della nostra pallacanestro, e ha ragione nel dire che per completare il paragone epocale a Siena manca quella coppa, anche se insomma mi sembra che la concorrenza, il sistema Europa sia un po' più difficile rispetto ad allora. Prego. Assoluto, che abbiamo visto in Europa. Ma il mio interrogativo è questo: io come sempre, visto che abbiamo un presidente vulcanico a dir poco, talvolta ho condiviso e talvolta per niente alcune scelte degli ultimi anni, perché ha sempre stravolto la squadra, specie quando eravamo arrivati come 3 anni fa secondi in campionato, siamo stati beffati in finale di Coppa Italia, forse non era stata la scelta giusta a stravolgere completamente. Quest'anno sono stato tra coloro che erano i detrattori della scelta di non mettere nel roster Sherrod Ford, che secondo me era un giocatore che ci avrebbe fatto molto comodo. Vedendo però la performance di Maggioli, che forse è stato sempre tra i migliori all'inizio dell'anno, la mia domanda provocatoria è: secondo voi se questa perdita di Ford ha consentito a Maggiori di esplodere, che altrimenti sarebbe rimasto un po' troppo in panca, oppure se assieme a lui avremmo avuto sotto le planche veramente una coppia esplosiva, perché Sunny Kid non lo vedo ancora pronto per esplodere, mentre la Virtus ha programmato bene, ad esempio, su Koponen, perché lo hanno aspettato quando il ragazzo stava andando male, ora sta dando veramente prova di essere pronto. Sì, ieri ha cambiato la partita Petteri Koponen. Allora, io prendo nota, Ford, Maggioli, prendiamo nota tutti insieme, intanto sentiamo anche gli altri ascoltatori, se no non facciamo mica in tempo. Francesco, Siena, buonasera. Buonasera, volevo ringraziarvi della trasmissione, perché almeno si parla un po' di basket, il calcio ci ha un po' nauseato. Sì, grazie a lei. E la cosa che volevo dire, soprattutto una cosa che soprattutto poi ha precisato ora Pedrazzi, però cioè, il problema secondo me non è sempre Siena che vince, che domina che cosa, cioè il problema sono quegli altri, cioè delle società tipo Milano, Roma, che spendono dei budget anche doppi rispetto a Siena. No. Doppi direi di no, perché non c'è nessuno che ha una banca alle spalle come la Monte dei Paschi, e non c'è probabilmente nessuno che fa degli investimenti di quel genere, quindi doppi direi proprio di no. Rilevanti, sì, assolutamente rilevanti, ma un conto è il problema è come si spendono i quattrini. Prego, Francesco. 5, 6, 10 giocatori, e poi vanno a cercare sempre gli scarti anche delle altre squadre, cioè una squadra come Milano, cioè, dovrebbe andare a scegliere sempre tra i primi della classe, no? Non andare a prendere sempre vero lì che va via da una squadra o da quell'altra perché non rende. Ascolto per radio, grazie. A lei, ma io comincio a dirle questo, poi rispondiamo all'ascoltatore di prima, a Francesco, e adesso a Claudio della provincia di Avellino. Io dico solo una cosa su questo punto: la grandezza di Siena, ad esempio, Terrell McIntyre poteva andare in Grecia, mettiamo all'Olympiacos, a farsi coprire di dollari, ha scelto di rimanere a Siena. Questa, secondo me, è la grandezza di Siena, uno dei motivi della grandezza di Siena. Claudio, provincia di Avellino, dica. Buonasera, grazie. Salve. Per la possibilità dell'intervento. Io volevo un attimino esulare da quello che erano gli aspetti tecnici, ringraziandovi per la trasmissione, perché volevo ringraziare la città di Avellino e la società, perché in una provincia di 300.000 abitanti, con una città da 60.000, che con tanta difficoltà, però con tanta dignità, riesce a rimanere in Serie A, non avendo una grossa tradizione cestistica alle spalle, ad organizzare una finale hit e a farci divertire. Io mi sono emozionato tanto ieri a vedere la partita e a vincere una Coppa Italia in Italia. Normalmente si parla del meridione con qualche latitudine, guardandola da qualche latitudine un poco diversa, questa volta penso che forse abbiamo fatto bella figura. Tutto qua. Ci associamo ai complimenti alla città di Avellino, alla sua società, al suo presidente. Allora, ragazzi, abbiamo Ford, Maggioli, da domanda di Giampaolo da Firenze, tifoso della Virtus, poi l'ascoltatore di Siena che diceva beh, budget doppi no, Siena è quella che spende di più, però è anche nettamente quella che spende meglio. Cosa avete da aggiungere? Sulla Virtus, non so, prima vorrei sentire la tua, perché mi hai tirato un sasso sulla Virtus prima. No, io penso che Sharofor Maggioli, da un punto di vista puramente teorico, sia un'accoppiata laddove si potesse tradurre in realtà, da un punto di vista tecnico, tattico, assolutamente perfetta, due giocatori di grande integrazione l'un con l'altro, sembrano fatti speculari. Maggioli che ha statura ma che sa occupare anche gli spazi esterni e quindi sa aprire all'atletismo, all'altro che gioca anche più frontalmente, attaccando il canestro dentro l'area in verticalità. E sono l'altra cosa invece che Francesco mi sembra accennava è quella essenziale. È ovvio che ci sono delle interdipendenze che sono nodi difficili da sciogliere. L'esplosione di Maggioli, peraltro annunciata perché era un giocatore di assoluto valore che aveva resistenza solo a venire in Serie A, è dipesa anche dallo spazio che l'assenza di Ford li ha creato, dunque sinteticamente sono un ossimoro. È anche vero, vorrei solo aggiungere questo, che le Maggioli ha sempre ben fatto con giocatori molto rudi e molto duri vicino a sé, quindi da questo punto di vista credo che la scegliere sia Faiardo, che è un grande fedelissimo di Lino Lardo, che è Sani Chizze, che a me per esempio piace molto, secondo me da questo punto di vista si è dimostrato un qualcosa di molto azzeccato anche per la crescita di Maggioli, che comunque all'inizio ha fatto fatica, l'ascoltatore diceva dall'inizio sta tra i migliori, all'inizio ha fatto molta fatica, Maggioli non stava benissimo. Poi Maggioli, c'è anche da dire che, se parlavamo prima, voi dicevate è dovuto scendere per giocare tanti anni in Lega 2, però ha avuto grandi chance Maggioli e non è in gioventù, diciamo così, riuscito a sfruttarli in pieno. No, io l'ho sempre colpevolizzato, per carità, sì. Ognuno è libero di fare le proprie scelte, ma io ho sempre pensato che fosse un giocatore dall'essere abbastanza leggero, cioè che preferisse essere il primo tra i secondi che non il secondo tra i primi, e invece si sta dimostrando, quindi non è che ha avuto, secondo me è stata una sua scelta, e quando fai un lavoro di questo tipo ci vuole grande ambizione e insieme a grande umiltà, ovvero accettare la sfida pensando anche di poterla perdere, ma di lottare sempre per migliorarti, e questo secondo me lui non l'ha fatto, ma questo è un discorso per il quale potrei anche essere duramente redarguito, perché invado una sfera personale che non mi riguarda e non mi attiene, mi faccio i fatti degli altri. E invece è un giocatore, per un lungo lui è estremamente tecnico e competente, certo, anche nei meccanismi del gioco. Avere vicino, sono d'accordo assolutamente con Flavio, un giocatore di grande adrenalina, di grande energia, in particolare come Faiardo, sicuramente lo agevola tantissimo. Ci fermiamo per il traffico, subito dopo torniamo, arriverà anche Flavio Tranquillo, 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde, messaggi 349 238 6666. C'è uno molto lungo di Stefani, anche molto duro, troppo duro secondo me, da tifosa ferita di Milano naturalmente, nei confronti soprattutto di Bulleri. Non credo, non sono d'accordo, Stefania, che un Caterinas valga 10 Maciulis, ma comunque io credo che in questo si legga la rabbia dei tifosi milanesi, comprensibile peraltro. Palla spicchi. Come annunciato da Avellino, Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Stiamo discutendo sulla prima serata di Coppa Italia. Resta una formula bellissima questa, credo anche televisivamente splendida. Decisamente sì, come tutte quelle knockout, eliminazione diretta, o scegliete voi la definizione. Senti, commento tuo sulla prima giornata. Io prima, parlando con Coach Peterson su Milano, la prima parola che mi è venuta è stata fallimento. La seconda non lo so, perché poi il Cos mi ha detto no, fallimento è tanto, io la ripeto a scanso di equivoci. Beh, per dire fallimento onestamente sarebbe stato necessario avere Finlay Petravičius in campo. C'è sempre un però per cui non è fallimento, per cui direi che senza parteggiare per nessuno sto un millimetro di più col coach, ma capisco molto bene cosa vuoi dire tu e ne condivido lo spirito generale. Mentre su Bologna, grande segnale quello di ieri sera. O ti ha deluso Caserta? Partita tu hai commentato. Ma trovo dall'inizio che Caserta sia una squadra di un certo tipo e quindi legata a certi meccanismi, come è naturale che sia, non essendo stata costruita necessariamente per vincere l'Eurolega sia a livello di budget che a livello di potenziale. Quindi vive di equilibri che sono abbastanza fragili. Ieri Bologna è stata molto brava a rompere quegli equilibri e Caserta, quando la partita si mette in una certa maniera, fa venire fuori quei limiti e non riesce invece a far venire fuori i punti di forza che ha. Siccome oltretutto Bologna sembra fatta apposta, perché è veramente l'altra faccia della medaglia rispetto a Caserta, ne è venuta fuori una partita di questo tipo. Flavio, scusa, volevo chiederti il discorso legato a Dait, il giocatore che Caserta ha preso in quest'ultimo periodo, un salto di rendimento incredibile rispetto a quello che praticamente non avevamo mai visto a Montegranaro. Però insomma, questo è un giocatore valido, un giocatore di livello, probabilmente è il contesto, no, che cambia un po' le situazioni. Assolutamente sì, è impossibile che un giocatore non sia di livello per giocare nel campionato italiano, con il massimo rispetto del campionato italiano, quando è stato di livello sufficiente per essere comunque per un periodo in squadra ai Miami Heat e uscire di squadra anche per fatti extra basket prima ancora che cestistici. Però il discorso è questo: Haidt a Montegranaro ha fatto pochino e poi Montegranaro è andata meglio senza Haidt. Haidt è arrivato a Caserta, ha fatto benissimo, direi che a Milano è stato uno dei migliori, ieri è stato uno dei migliori, non necessariamente quello che fa un singolo giocatore, quanti punti, quanti rimbalzi, quanto impatto in questo sport ti garantisce da solo la vittoria, quindi è il contesto e soprattutto è la somma di quello che fanno poi i giocatori in quel contesto che ti fa vincere o non vincere. Dato che queste sono le uniche notti dell'anno in cui si può realisticamente sognare senza far ridere i polli, caro Flavio, sono curioso, resto curioso di vedere questa sera Montegranaro e la sua freschezza, la sua carica, il suo momento splendido contro lo stress di Siena. Beh, di certo per Siena non è facile, nel senso che se c'è una partita in cui una squadra solo da perdere, una squadra solo da guadagnare, è questa. Poi naturalmente tutte le altre considerazioni favoriscono leggerissimamente Siena. Se fosse una serie di playoff non ci sarebbe neanche a preoccuparsi di quello che succederebbe, non è una serie di playoff. Andiamo a vederla, perché ovviamente stiamo parlando di un'eventuale anomalia. Anche se giocano 10 partite, Siena ne vince di sicuro 8, molto probabilmente 9. Vediamo se vince anche la eventuale decima, se questa è la decima. Ma questa è la sudden death. Werther Pedrazzi. ciao Flavio. Niente, concordo assolutamente sul fatto che è sostanziale per dichiarare e abbassare la serranda a Milano, bisogna vederla al completo e nel completo rispetto delle scelte. Io poi personalmente ritengo che non tutte le assenze siano uguali, nel senso che non tutte abbiano lo stesso peso, e in particolare quella di Petravicius, che è l'unica torre, l'unico presidio d'area a cui ancorarsi, rende Milano molto più labile e costretta a girare per le praterie esterne. Non so se sei d'accordo, se ti è, e portando anche giocatori peraltro estremamente validi in questo momento, come la batteria di esterni di Milano, portarli poi alla fine praticamente esauriti. Può essere questa una lettura? Sì, può sicuramente essere una lettura. Di certo per certi versi Fili e Petravicius potrebbero essere i due più insostituibili, però c'è anche un'altra possibile lettura, ovvero sia se abbiamo appena parlato di Caserta, diciamo che si fanno male di Bell e Jumaine Jones, diventa normale per molti motivi che la squadra abbia un serio calo di rendimento in una situazione in cui a inizio stagione il decimo destinato a non giocare mai o a giocare veramente pochissimo è Jeff Viggiano, un giocatore che, come poi è stato dimostrato dai fatti, sta in campo in quintetto in qualsiasi squadra di questo campionato. Allora forse non devi metterti nelle condizioni che uno o due infortuni ti mettano così in difficoltà. È vero che è venuto a mancare per vari motivi che non sono cestistici Joy Beard, però quello, ricordando lo scorso anno Beard, nel poco che ha fatto quanto è stato importante, sostituirlo con Giannis, che evidentemente non è ritenuto in grado di giocare, è chiaro che non c'è Joy Beard dietro a tutti gli angoli, però quello poi alla fine è più per sfortuna che per altro, ma è diventato un problema. Flavio, io prima di salutarti volevo, a furor di messaggi SMS, farti una domanda sulle trade statunitensi. Tracy McGrady a New York, i Celtics che a Carnevale prendono sempre, secondo anno di fila, un bizzarro playmaker dalla stessa New York, l'anno scorso Marbury, quest'anno Nate Robinson e soprattutto Antoine Jamison a Cleveland per il Gauskas, che però forse tornerà. Come valuti questi fuochi? Il Gauskas direi torna di sicuro, anche perché siamo americani, una volta che è rispettata la forma siamo a posto, anche se la sostanza è la stessa che costò a Dallas una serie a reprimenda. Valuto che Jamison sia naturalmente un eccellente giocatore, però per il discorso che abbiamo appena fatto, io non credo che se tu hai 8 eccellenti giocatori allora hai più possibilità di vincere un titolo. Poi magari lo vinceranno grazie a Jamison, ma io non vedo perché li dovrebbe avvicinare così tanto. Jamison gli dà un po' di più di certe cose, ma se gioca Jamison non gioca o Varejao o Scheck o il Gauskas o Hickson, che hanno altre caratteristiche, e quindi alla fine secondo me fai più o meno pari, hai solo aggiunto un altro giocatore. New York ha fatto un capolavoro nel riuscire a dar via Robinson, che avvelenava completamente l'atmosfera, Jeffries e il suo contratto. Naturalmente questo è costato il dover rinunciare a Jordan Hill, non tanto in quanto Jordan Hill, ma significa che 4 mesi dopo averlo scelto al numero 8 l'hai già data su, come si suol dire, in quel di Bologna, e quindi almeno un errore grosso lo hai fatto. Grazie Flavio, buon lavoro. Ciao. A voi, saluti. Ciao, ciao. Grazie Flavio, tranquillo. Facciamo appena in tempo a salutare Marco da Cremona, perché tra 30 secondi dobbiamo chiudere. Marco, buonasera. Buonasera, volevo soltanto un giudizio tecnico sulla rivoluzione portata a Cremona appunto dal cambio dell'allenatore, questi due nuovi giocatori che sono stati inseriti, l'ultimo annunciato proprio oggi dalla società, se può portare i frutti sperati per questa agognata salvezza. Ecco, tutto qua, vi ascolto per radio. Bocca al lupo a lei Marco, bocca al lupo, io credo di sì, io credo che Cremona... Difficile, ma Attilio Cai è uomo da battaglie e quindi... Si salva Cremona, Werther? Molto probabilmente sì, anche perché fino ad oggi non ha mai, tranne forse una partita proprio completamente sbagliata contro Cantù, vado a memoria ma non ne sono sicuro, ha sempre perso giocando fino in fondo, ha sempre perso partite che ha condotto fino agli ultimi istanti, ha perso l'ultimo tiro con squadre importanti come Bologna e Roma. E che cosa le ha mancato? Le ha mancato un po' di cattiveria e di esperienza. Oltre ai due giocatori, mettici anche Artiglio Caia, Artiglio penso porta di sicuro che ci siamo. Grazie Werther, grazie a voi, alla prossima. Grazie Flavio Suardi, alla prossima. Grazie a Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantatore in regia. Domani pomeriggio c'è il rugby, naturalmente da lì partiremo dalle 17 alle 18, lo sport vi aspetto.